24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'attesa conference call dei ministri finanziari del G7. I paesi europei, secondo quanto riferito da alcune fonti diplomatiche, si sarebbero impegnati a garantire una risposta immediata alla crisi. Intanto si aggrava la situazione in Spagna, dove sia il premier Mariano Rajoy che il ministro del bilancio Cristobal Montoro hanno lanciato appelli su Eurobond e ricapitalizzazione europea delle banche. La Corte dei Conti denuncia: ammontano a oltre 1 miliardo di euro le frodi compiute in Italia a danno dei fondi strutturali europei. Infine, oltre Manica, si avviano alla conclusione i festeggiamenti per la regina. In apertura dunque la conference call dei ministri finanziari della G7. Il Tesoro americano ha reso noto che il meeting ha discusso i progressi verso un'unione fiscale e finanziaria europea, mentre fonti del Giappone hanno aggiunto che i paesi continentali si sono impegnati nel garantire una risposta immediata alla crisi. Le stesse fonti nipponiche hanno negato che sia stata discussa l'uscita della Grecia dall'euro. Alla conference call ha preso parte, nella sua veste di ministro dell'economia, anche il premier italiano Mario Monti. Abbiamo un problema di finanziamento, liquidità e sostenibilità del debito, ad affermarlo il premier spagnolo Mariano Rajoy in un discorso al Senato. Il premier ha per la prima volta richiesto il varo degli Eurobond per abbassare lo spread. Rajoy ha ricordato come l'intervento della BCE in agosto, attraverso l'acquisto di bonus, abbia dato un considerevole aiuto. Il ministro spagnolo del bilancio Cristobal Montoro, intanto, ha chiesto che l'Europa metta a disposizione fondi per le banche iberiche. In un'intervista alla radio Onda Cero, Montoro ha sottolineato che non è necessaria una quantità di fondi eccessiva. Non parliamo di cifre astronomiche, ha detto. Secondo il ministro, per questo è importante che le istituzioni europee si aprano e ci aiutino a ottenere i fondi. I fondamentali dell'economia spagnola sono solidi e, quanto ha sottolineato Re Juan Carlos da Brasilia, dove ha incontrato la presidente Dilma Rousseff, Juan Carlos ha spiegato che le misure di aggiustamento per contrastare la crisi daranno presto risultati. La Spagna sta facendo le cose giuste, così il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble, commentando la situazione delle banche iberiche alle prese con una crisi e ricapitalizzazioni. Sentiamo il commento del corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. La crisi debitoria europea sta preoccupando sempre più il resto del mondo. Da Washington il presidente americano Barack Obama ha esortato i governi europei a trovare rapidamente una soluzione strutturale allo sconquasso finanziario, perseguendo una maggiore integrazione politica. Quest'oggi si terrà una riunione in teleconferenza dei ministri delle finanze e dei governatori nazionali del gruppo dei sette. All'ordine del giorno sarà la crisi bancaria in Spagna. Il paradosso è che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno spesso una visione più lucida di molti governi europei sulla strada da percorrere per uscire dalla crisi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Non ci sono divergenze con gli Stati Uniti sulla risposta globale alla crisi. Ciò che conta è quanto ha detto il presidente Barack Obama dopo il G8 e non una dichiarazione del portavoce della Casa Bianca. Così il portavoce della Commissione europea ha commentato l'allarme lanciato da Washington sulla risposta alla crisi. È normale che ci siano preoccupazioni, ha aggiunto il portavoce, ricordando che la fragilità delle banche non è un'esclusiva della zona euro e che anche gli Stati Uniti hanno problemi sul debito. Italia e Francia ritengono necessaria un'azione urgente, coordinata e incisiva per la crescita nell'Unione Europea. Così il ministro degli esteri Giulio Terzi, nel corso di una conferenza stampa con l'omologo transalpino Laurent Fabius. Secondo il titolare della Farnesina, occorre dotarsi di meccanismi capaci di sostenere la crescita e l'occupazione, oltre a favorire una migliore governance europea. Nelle prossime settimane, ha aggiunto Fabius, è necessario prendere decisioni importanti. La popolazione europea le aspetta, il mondo le aspetta. E il Fondo Salva Stati Europeo IFSF ha raccolto sul mercato 1,99 miliardi di euro. Con la collocazione di titoli a 3 mesi, gli investitori hanno ottenuto in media rendite pari allo 0,137%. Chiusura in rialzo per le borse del vecchio continente, a eccezione di Francoforte sulla parità e di Londra ancora chiusa per festività, grazie soprattutto al buon andamento delle banche, più 1% in Europa. Milano ha segnato un più 0,63%, Parigi ha guadagnato oltre un punto percentuale, nonostante non siano emerse grandi novità dalla conference call tra i paesi del G7 sulla risoluzione della crisi del debito. I mercati sono in attesa oggi della decisione della BCE sui tassi e della riunione della Commissione europea, che discuterà possibili piani di aiuto alle banche anche attraverso fondi di risoluzione bancari nazionali. ammontano a 1,125 miliardi di euro gli importi da recuperare per le frodi compiute in Italia a carico dei fondi strutturali europei. È emerso in una audizione della Corte dei Conti alla Commissione per le politiche comunitarie del Senato. L'importo maggiore delle frodi, pari a 578 milioni, è a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. I servizi della Commissione hanno inviato una lettera di richiamo all'Italia in cui criticano severamente il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riforma il sistema di incentivi per le energie rinnovabili. Le nuove norme, in discussione oggi alla riunione Stato-Regioni, renderanno molto difficile, se non impossibile, per i produttori indipendenti accedere al finanziamento dei propri progetti. Così scrive l'esecutivo comunitario in una missiva dei servizi del commissario all'energia Günther Oettinger. L'Italia è ancora in una situazione problematica perché usa troppo le discariche e troppo poco il riciclaggio. Queste, secondo quanto ha riferito il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, le osservazioni che la Commissione europea ha formulato recentemente rispetto al piano presentato da Roma. Clini ne ha parlato a margine del suo intervento alla conferenza sull'uso efficace delle risorse. Sulla riforma della politica agricola comune post 2013, l'Italia è interessata a chiudere bene. Se dobbiamo chiudere male, è meglio rimanere come stiamo. Ad affermarlo il ministro per le politiche agricole e alimentari Mario Catania, secondo cui c'è molta perplessità sulla possibilità di chiudere la riforma in tempi ragionevoli. EULEX, la missione di polizia doganale e giudiziaria in Kosovo dell'Unione Europea, è stata prorogata di 2 anni sino a giugno 2014. In una nota il numero 1 della diplomazia europea, Catherine Ashton, afferma che il mandato di EULEX resta invariato, ma che la missione, che oggi impiega 3.000 persone, sarà ridisegnata per renderla più forte, più snella e più efficiente. Il personale verrà ridotto del 25%. La Commissione europea sbagliò nel 2003 a definire aiuto di Stato una misura fiscale presa nel 1997 dalla Francia a favore di EDF prima dell'apertura del mercato interno dell'energia elettrica. Lo ha definitivamente stabilito la Corte di giustizia, che ha confermato la sentenza del 15 dicembre 2009 con cui il Tribunale europeo aveva annullato la decisione con la quale Bruxelles chiese la restituzione di 888,89 milioni di euro da parte di EDF. E il governo turco chiede all'Unione europea che i suoi cittadini non abbiano bisogno di visti per entrare sul territorio comunitario. Così il ministro degli esteri di Ankara, Ahmet Davutoglu. È costato 100 milioni di dollari e pesa come un'utilitaria. Solar Impulse, il primo volo intercontinentale a energia solare, è partito dalla Spagna per arrivare in Marocco. Sentiamo. È decollato stamattina il primo volo intercontinentale alimentato esclusivamente ad energia solare. Il velivolo svizzero Solar Impulse è arrivato a Madrid il 25 maggio. Da qui è partito oggi alle 5.22, ora locale, in direzione del Marocco, dove dovrebbe arrivare per le 22. A pilotarlo lo svizzero Bernard Piccard, uno dei fondatori del progetto. Sono serviti 7 anni di lavoro e un'equipe di 70 persone per costruire questa creatura che è concepita per volare di giorno e di notte senza carburante e quindi senza emissioni di inquinanti. La spinta propulsiva dell'aereo è data unicamente dall'energia solare. Il velivolo è in fibra di carbonio e pesa come un'utilitaria. L'intero progetto, iniziato nel 2003, costerà 100 milioni di dollari entro i prossimi 10 anni. Giorgia Mennoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Inghilterra proseguono i festeggiamenti per i 60 anni di regno della regina Elisabetta II. In chiusura la messa di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul. Ieri sera il concerto di fronte a Buckingham Palace. Il servizio. Si è concluso in bellezza il penultimo giorno dei festeggiamenti del Giubileo di Diamante. Paul McCartney ha cantato insieme agli altri ospiti del concerto davanti Buckingham Palace la sua Obladi Oblada in onore della regina Elisabetta II. La stessa regina che nel 1965 consegnò a lui e agli altri membri dei Beatles l'onorificenza di baronetti. La regina 86enne ha assistito divertita al concerto. Non era con lei il principe Filippo ricoverato in ospedale per un'infezione. I festeggiamenti oggi si concludono con una messa di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul, alla quale partecipano i membri della famiglia reale. Poi la monarca inglese tornerà verso Buckingham Palace alla testa di un corteo. La carrozza che accompagnerà Elisabetta II al palazzo è la stessa usata da Lady Diana al giorno delle nozze. Quasi che il reame voglia tracciare una linea di continuità tra la dorata principessa scomparsa prematuramente e la rigida regina che l'Inghilterra ha imparato con gli anni a conoscere e ad amare. Giorgia Mennoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.